Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Carloforte è una piccola isola di 7.000 abitanti, si trova a sud-ovest della Sardegna. Carloforte è uno dei più bei borghi d'Italia e a partire da oggi anche un progetto molto ambizioso: diventare la prima comunità italiana a emissioni zero e anche la prima totalmente indipendente dal punto di vista energetico. L'annuncio è stato dato oggi nel corso del Carloforte Green Workshop, che proseguirà tra l'altro anche domani e dopodomani. Cerchiamo allora questa sera di capire come l'isola intende raggiungere questo obiettivo che, come abbiamo detto, è decisamente ambizioso. Ne parliamo con Daniele Pulcini, che è docente di sistemi energetici all'Università di Roma La Sapienza ed è coordinatore di ARL, il gruppo di ricerca sulle applicazioni energetiche rinnovabili negli enti locali, ed è anche il coordinatore di questo progetto. Buonasera Pulcini. Buonasera. Allora Pulcini, qual è questa ricetta che vi consentirà di raggiungere nel 2014, quindi veramente tra pochissimo, questo risultato notevole? Visto che mi parla di ricette, diciamo che siamo in cucina. Sì. Per fare un buon piatto servono tre cose di solito in cucina: delle buone pentole. E qui è entrata in gioco la nostra metodologia implementata dall'Università di Roma e dal nostro gruppo di ricerca. Servono degli ottimi ingredienti. Questi ottimi ingredienti sono i dati analitici dello stato del patrimonio edilizio e la conoscenza del fabbisogno nel dettaglio del territorio in esame. E poi servono degli ottimi cuochi. I nostri cuochi sono i ricercatori, mescolano gli ingredienti, sanno fare degli ottimi piatti, ovvero produrre delle soluzioni percorribili sia scientificamente che economicamente. E parliamo di soluzioni, ecco, importante questo, tagliate su misura, cioè questo vostro modello di analisi serve a tirar fuori delle soluzioni che non sono sempre le stesse dappertutto, no? Assolutamente no, sono tagliate esclusivamente per il territorio in esame e vengono modificate di volta in volta, anche se la metodologia di analisi rimane sempre la stessa. Quello che facciamo noi è affiancare l'ente locale con l'unità di ricerca, trovare insieme a lui le soluzioni migliori, e in questo caso a Carloforte abbiamo utilizzato diverse strategie. Ecco, quali sono quindi? Beh, prima di tutto un piano energetico che è esplicato su diverse fasi temporali, ovvero non avviene tutto di colpo, quindi abbiamo diverse fasi temporali e almeno tre aspetti su cui il piano si focalizza. Uno ovviamente è la produzione di energia da fonti rinnovabili, e non sempre soltanto le solite come il solare fotovoltaico nei tetti o a terra. Parleremo di solare termico integrato, lo realizzeremo casa per casa. Ecco, integrato in questo caso che cosa vuol dire? Perché quella è un'isola su cui bisogna stare attenti, perché come dire, appunto, è molto bella dal punto di vista paesaggistico e quindi bisognerà avere delle accortezze notevoli. Di solito si parla di fotovoltaico integrato, no? Difficilmente di termico. Assolutamente, invece in questo caso parleremo anche di termico integrato, che andrà a sostituire dove possibile le coperture, quindi i tetti, altrimenti si andrà a integrare su questi tetti percorrendo le linee di falda, quindi senza inserire quel famoso orrendo bombolone d'acciaio che si vede la cisterna dell'acqua calda, insomma, sui tetti lì è meglio non metterla. Benissimo. Esattamente. E userete il sole solo per produrre acqua calda o anche altro? In realtà faremo acqua calda e con il residuo di calore faremo solar cooling, ovvero raffrescamento degli ambienti attraverso il calore. Non bisogna dimenticare che Carloforte è un'isola del sud della Sardegna, è un ambiente molto caldo, ha dei gradi giorno molto importanti, quindi significa che è un'isola calda, ha un problema di raffrescamento più che di riscaldamento. Quindi c'è molto sole a Carloforte e quindi va utilizzato, e siccome siamo in Sardegna presumo anche molto vento. C'è molto vento e noi abbiamo ideato una soluzione che va ad affiancarsi a quello che era il vecchio impianto di Nasca, un impianto da 2 megawatt di eolico tradizionale. Affiancheremo degli interventi di microeolico che saranno distribuiti in modo uniforme all'interno del territorio per dare risposta al fabbisogno direttamente sul territorio. D'accordo, quindi piccolo eolico, poco invasivo anche dal punto di vista paesaggistico. E poi? E poi veramente qualcosa di innovativo. Prima di tutto entra in gioco nel nostro piano l'idrogeno come vettore energetico. L'energia, come lei sa, delle fonti rinnovabili è molto discontinua, quindi l'unico modo per rispondere al fabbisogno di un territorio è accumulare questa energia. L'idrogeno ci consentirà di accumulare questa energia sotto forma di vettore energetico e poi di riutilizzarla quando serve, è chiaro. E poi si siete intervenuti anche, come dire, a livello di rete, in un certo senso, di rete su piccola scala però. Sì, abbiamo creato una sorta di rete virtuale dell'energia, l'abbiamo progettata a tavolino e ora la stiamo implementando. Creeremo un meccanismo di risparmio e ottimizzazione della rete attraverso una, mi consente di usare questo termine, una domotica diffusa. Comunque una soluzione elettronica che si collochi con un piccolo apparecchietto che avrà una scatolina colorata. Uno in ogni casa, giusto? In ogni punto di prelievo, quindi non solo in ogni casa, ma su ogni lampada, su ogni televisore, su ogni stampante. Addirittura. Da bagno e così via, assolutamente sì. E che cosa succede a quel punto? E questo apparato creerà una rete virtuale in cui tutti quanti i punti della rete saranno in contatto tra di loro e attueremo finalmente una politica di smart grid vera, ovvero il superamento dei picchi e la ricerca dell'equilibrio energetico. E questo è un dato veramente innovativo. Ecco, io le chiedo di un'esperienza come questa, perché abbiamo parlato anche di interventi che sono estremamente costosi. L'accumulo energetico con l'idrogeno sicuramente è il non plus ultra dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista economico è molto molto molto costoso. Mi sembra difficile pensare di trasferire queste soluzioni così come sono dappertutto. Che cosa allora possiamo imparare da questa esperienza? Intanto abbiamo imparato l'applicazione di una metodologia che si può standardizzare per tutte le realtà locali e poi impariamo il sistema di gestione e di controllo, che è un sistema elettronico che è applicabile ovunque, dal grande edificio alla comunità territoriale, purché si interconnettano consumo e produzione dell'energia. Grazie Pulcini. Grazie mille a lei. Prima di fermarci un annuncio, c'è stato un nuovo importante esperimento per quanto riguarda l'ICAT, parliamo della fusione fredda, affronteremo l'argomento all'interno di Mebius sabato e ci torneremo settimana prossima qui a Mr. Kilo.